Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi, noi siamo qui. Filippa Oreggi regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, due ospiti in studio, ma prima il nostro sommario. Non si vedono ma ci sono. Parliamo di virus e batteri. Ribes nero e curcumina, quando la natura ci dà una mano. Polipi intestinali. In futuro farmaci al posto del bisturi? Non toccare che è sporco. Ti sei disinfettato? Mettiti la mano davanti alla bocca. Non tossirmi in faccia, che mi fai ammalare, no? Hai le mani così sporche da chiamare l'ufficio di igiene. È tutta la giornata che devo fare pipì, ma l'idea di sedermi su un water che non conosco, sai, non c'è da scherzare. Dai, con quel cane sempre addosso che ti lecca. Chissà quante volte lo abbiamo detto, ce lo siamo sentiti dire, da piccoli specialmente, esortazioni, raccomandazioni, minacce, con un denominatore comune, l'antica paura dei germi, inevitabili forme di vita che sono ovunque, fuori, intorno e dentro di noi e sempre in agguato. Nonostante Pasteur, nonostante contro questi nemici abbiamo affinato le armi, i microbi, volenti o nolenti, continuano ad essere vissuti come una minaccia, con un aggravante però rispetto ad altri potenziali nemici. Sappiamo che esistono. Che sono lì, anzi qui, vicino, addosso e dentro di noi, ma non li vediamo. Temibili ma anche indispensabili, amici per e della nostra vita. La puntata di oggi, cari amici, a proposito, la vogliamo dedicare a questo universo invisibile ma con cui da quando siamo al mondo dobbiamo fare i conti e imparare a conviverci nel bene e nel male. In studio è tornata a trovarci la professoressa Maria Rita Gismondo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Direttore della microbiologia del Polo Universitario Sacco di Milano. Oggi lei sarà il nostro Dante. Beh, spero di non finire in esilio come lui. Però anche Dante in esilio, ha avuto dei buoni pensieri. Certo. E in studio con noi Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Starbene, che a questo tema ha dedicato un servizio molto interessante. A volte tornano. Ciao Nicoletta, sì, è vero, noi ci siamo occupati di virus e soprattutto di quelli che tendono, diciamo, ad accompagnarci in varie fasi della vita, per citartene qualcuno, il famoso herpes labiale, il papillomavirus, la varicella che si trasforma in fuoco di Sant'Antonio da adulti. Poi ci siamo occupati anche di false informazioni, per esempio molti pensano che la mononucleosi si ripeta all'infinito, insomma. Abbiamo scoperto che così non è. La malattia del bacio. Esatto. Professoressa Gismondo, facciamo finta di voler girare un film in cui i microbi sono protagonisti. Il casting è abbastanza affollato. Allora iniziamo a scegliere i personaggi, assegniamo i ruoli, così diamo un nome e una parte a ciascuno. Intanto per tutti voi do il numero verde 800 24 00 24, è il numero per inviare i messaggi, 349 238 6666. Professoressa, Cominciamo con i cattivi, quelli che insomma una volta che li incontri ti possono cambiare la vita, i virus dell'epatite, quelli dell'HIV, ma anche direi dobbiamo ricordare quei simpatici monelli che ci hanno fatto male o ci fanno male ma li ricordiamo con nostalgia, insomma quelli delle cosiddette malattie esantematiche che da ragazzini ci hanno fatto prendere qualche brutta paura con della febbre alta ma poi ci hanno concesso qualche giorno di vacanza a scuola, come il virus della varicella, il virus della rosolia. Professoressa Gismondo, allora continuiamo la nostra selezione, scegliamo altri attori e questa volta tra quelli che hanno fatto del nostro organismo la loro residenza permanente. Questi animalucoli, come li chiamò Anthony van Leeuwenhoek, naturalista olandese che per primo li descrisse, siamo nel 1683. Professoressa. Anthony van Leeuwenhoek, al quale dobbiamo comunque i primi passi che poi ci hanno portato fino all'invenzione del microscopio, dobbiamo dire che in realtà era un raccomandato di quei tempi che, assicuratosi lo stipendio da impiegato pubblico, poi in realtà si è occupato d'altro, cioè la sua passione per le lenti e a furia di sovrapporle ha costruito un microscopio in miniatura. Allora dicevamo, torniamo ai microorganismi buoni, sono solo i batteri, perché i virus al massimo potranno essere innocui, il virus è un parassita e non ci porterà mai un beneficio, e ciò anche per la sua stessa caratteristica di vivere solo all'interno delle nostre cellule, mentre i batteri sono dei microorganismi autonomi, riescono a vivere anche per conto loro e sono delle piccole industrie molto produttive, industrie biologiche che spesso, molto più spesso di quanto si immagini, producono per noi sostanze che non riusciremmo a produrre se non con la loro presenza, come per esempio esempio le vitamine dentro il nostro intestino. Quindi i batteri buoni, sì, io li adoro, guardi, si vede. Adesso che abbiamo i protagonisti possiamo scrivere la sceneggiatura. In alcuni casi sarà una storia lieto fine, in altri una storia drammatica, in altri casi più che un film sarà una telenovela, perché i protagonisti infatti non usciranno mai di scena, ma torneranno e torneranno e ritorneranno in nuove entusiasmanti puntate. Beh, Nicoletta, è la nostra storia di convivenza con questo mondo meraviglioso, batteri che vivono all'interno del nostro organismo, per le donne all'interno della vagina, e ne fanno il buono e il cattivo tempo, perché le vaginiti sovraggiungono anche quando questi batteri buoni scompaiono. Direi che abbiamo un casting non sopraffollato, ma con miliardi di protagonisti, abbiamo di che scegliere, insomma. E come anticipavo, Alessandro Pellizzari, voi invece vi siete occupati soprattutto di quelli che tornano, quindi delle telenovela. Assolutamente, però è veramente importante sottolineare come queste popolazioni si dividano, no, fra buoni e cattivi, e dobbiamo imparare a trovare un equilibrio grazie ai consigli dei medici, perché molto spesso pensiamo, diciamo, al farmaco come qualcosa che deve sterminare, non so, a me viene in mente in questo caso la candida, che è un classico, diciamo, delle nostre lettrici, un classico problema delle nostre lettrici. In realtà la candida poverina, anche lei ha una sua funzione, se è in equilibrio con i suoi commensali, o come vogliamo chiamarli, i coinquilini, insomma lo vedo come un po' un condominio in cui noi siamo l'amministratore e dobbiamo cercare di far andare d'accordo tutti, nonostante che quello abbia il box che ha le infiltrazioni e l'altro che invece ha problemi, diciamo, con quello di sopra che fa rumore, ecco. Quindi sono poi piccole cose, ma penso che lo scopriremo, no? Lo scopriremo dall'igiene a diciamo a piccole attenzioni quotidiane che cambiano un po' questi equilibri condominiali, vero, anche professore? All'uso discriminato degli antibiotici, no? Certo, a tenere a casa un sempre problema. Un antibiotico non qualsiasi problema, no, è meglio non usarlo. Devo dire però che voi signore siete le uniche che mantengono alta la bandiera del non antibiotico, perché facendo una piccola operazione statistica che non ha valore scientifico sul mio piano della Mondadori, dove ci sono maschi e femmine, quelli come me che hanno un primo problema, la sinusite, voglio l'antibiotico. Le signore invece resistono, magari usano i granuli, usano qualsiasi cosa, resistono, però l'antibiotico proprio devono prenderlo. Ci informiamo. Proprio non si può. Le donne sono informate e sagge. 800 24 0024, diventate anche voi coautori, raccontateci le vostre storie, i vostri incontri, le vostre vittorie, ma anche le vostre sconfitte, soprattutto le vostre paure, i vostri timori, come quello di Fabio che ci scrive: il mio cane mi bacia sulla faccia e bocca, è amore, lo so, ma a livello batteri cosa rischio? Rischia un'infezione come baciare indiscriminatamente un uomo che, o una donna in questo caso probabilmente, che di cui si sa poco. Il cane poi va in giro, lecca in giro il terreno, quindi è un vettore importante. Benché molti dicano: ma il mio cane è pulito. Sì, ma è cane e quindi annusa, lecca anche escrementi di altri cani. Si può amare un animale senza eccedere in queste fusioni. Parleremo naturalmente anche di bacio, perché Alessandro Pellizzari ha citato la mononucleosi, che ben venga, basta non baciare rospi. 800 certo. 24 0024. Una mela al giorno. Oggi nel nostro consueto spazio dedicato al benessere ci occupiamo di due ricerche che sottolineano il ruolo preventivo di alcuni alimenti che possiamo inserire facilmente nella nostra dieta. Il primo riguarda il succo di ribes nero per migliorare i sintomi dell'asma allergica. E quanto sostiene uno studio che è pubblicato su una rivista scientifica, Molecular Nutrition and Food Research, e dai ricercatori dell'istituto neozelandese Plant and Food Research. Allora, secondo questo studio, il ribes nero conterrebbe delle sostanze che aiuterebbero a ridurre l'infiammazione polmonare dovuta all'asma allergica. Allora, io ho invitato il professor Alessandro Fiocchi, allergologo, primario pediatra alla clinica Macedonio Melloni, per saperne qualcosa di più. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, allora, ribes toccasana per gli allergici, verrebbe da leggere così? Toccasana forse no, però certamente è uno dei prodotti che può dare un aiuto agli allergici, soprattutto quando sviluppano asma. Le proprietà che questo studio elucida sono proprietà che erano note già per questo e anche per un'altra serie di composte, e cioè le proprietà antiossidante. Il problema per i bambini che soffrono di asma è che i meccanismi di ossidazione che normalmente sono attivi nel polmone in questo caso sono esaltati. Sì. E quindi dare delle sostanze antiossidanti significa in qualche modo proteggerli da questi meccanismi, da queste azioni tossiche che vengono dall'interno dell'organismo e dall'esterno. Quindi oltre al ribes fanno bene tutte le sostanze che contengono antiossidanti, il pomodoro con il licopene ad esempio, professor Fiocchi? La carota con il carotene, la vitamina C, la vitamina E, eccetera, sono molti gli antiossidanti esterni che vengono, che possono essere introdotti. Tornando al ribes, professor Fiocchi, quanto se ne deve assumere per avere effetto? Lo studio australiano non indica una dose precisa, indica che c'è una correlazione tra il consumo spontaneo di ribes e la riduzione del rischio di asma. Questo fa eco a studi epidemiologici fatti anche in precedenza che dicono che è la stessa cosa con altri prodotti. Diciamo quindi che, grosso modo, una tazzina ogni 2-3 giorni può essere una cosa che aiuta. Professor Fiocchi, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata Nicoletta a tutti. E restiamo sempre nel mondo vegetale perché parliamo di curcumina. È un ingrediente fondamentale del curry che viene ricavato dal rizoma della curcuma longa o tormerico. C'è uno studio che suggerisce che questa sostanza, che viene utilizzata anche per come colorante, aiuterebbe a far star bene il nostro fegato riducendo le infiammazioni. Ne parliamo col professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna all'Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, dall'Università di Graz in Austria arriva questa ricerca che sottolinea il ruolo protettivo e preventivo allo stesso tempo della curcumina. Assolutamente sì, diciamo che vi sono due studi attualmente recentissimi. Uno è quello a cui si riferisce lei, appena uscito su una rivista che si chiama GATT, che è una rivista prestigiosa europea, e un secondo studio uscito da poco su un'altra rivista che si chiama Pathology, effettuata da un gruppo cinese. Allora, entrambe le ricerche hanno innanzitutto un limite, che è quello che sono state effettuate su modelli animali. Sapete sempre che le ricerche fatte su modelli animali sono molto interessanti, spunto di ricerca, ma con dei limiti. Però sì, diciamo che entrambe le dal ricerche... topo all'uomo un po' di sì, tempo ci passa. Ci sono un po' di passaggi, poi calcolate sempre che quando si danno nell'animale si danno in quantità molto alte, modelli sperimentali, cose difficilmente riproducibili nell'uomo. Però sicuramente hanno un senso, fanno lavorare la mente. E diciamo che la curcumina in entrambi i modelli dimostra che può proteggere dal danno sulle vie biliari. Nel particolare sembra che la curcumina aumenta la secrezione, la produzione di bile, e quindi in un modello particolare di animale che ha una malattia simile alla colangite sclerosante, cioè una malattia in cui si realizza un'infiammazione, una fibrosi delle vie biliari, le vie attraverso le quali passa la bile, questo studio dimostra che la curcumina riduce l'incidenza di questa malattia. Il secondo studio invece, quello fatto in Cina, dimostra che la curcumina riduce un particolare modello di steatosi epatica, cioè di grasso nel fegato sempre nell'animale. Quindi sembra che in entrambi i modelli agisca bloccando un processo complicato legato all'infiammazione. Il dato interessante è questo, che tutta la nostra medicina e farmacologia spesso deriva da osservazioni che vengono fatte sulle piante. Calcolate che la medicina tradizionale ayurvedica, quella cinese, spesso si basano sulle piante. Salutiamo il professor Antonio Gasbarrini e continuiamo con il tema del giorno. Non si vedono d'occhio nudo, eppur ci sono. Abbiamo in studio la professoressa Maria Rita Gismondo e il Alessandro Pellizzari, con cui parliamo di batteri. Non sono solo sempre nemici della nostra salute, anzi la maggior parte di loro sono essenziali per la vita. E ci occuperemo anche naturalmente del virus, la professoressa Gismondo l'ha anticipato. Virus, d'altronde dall'etimologia latina, significa veleno, tossina. Molte malattie sono di origine virale: il raffreddore, l'influenza, ma salendo in una scala di gravità, il morbillo, la varicella, l'epatite, il papilloma, l'herpes. Professoressa Gismondo, ne ho dimenticato sicuramente qualcuno. Beh, ha dimenticato quelli che sono gli incubi della società odierna, cioè quei virus che si teme possano essere anche utilizzati per fare degli attacchi bioterroristici o quindi indurre delle infezioni di massa. Sto parlando dei virus emorragici, dell'ebola, del vaiolo, che ci ricordano le storiche pestilenze. Ma per andare a un'esperienza vicina, anche ai virus influenzali pandemici. Non dimentichiamo che stiamo uscendo da una pandemia. Oggi l'OMS ha annunciato: voglio vederci chiaro su questa pandemia, perché forse una pandemia vera e propria non era. Le do uno spunto per un'altra puntata. Lei torna, però. Ricorda un po' la storia della viaria, questa. Però vogliamo, la professoressa Gismondo diceva i batteri mi piacciono, ma sono per la maggior parte buoni, assolutamente indispensabili, fanno tante cose buone, ma alcuni batteri possono essere anche nocivi e quindi essere ritenuti responsabili di alcune malattie. Penso alla dissenteria, alla polmonite, alla salmonella, al tifo, alla peste di manzoniana memoria. E a proposito di peste, dalla peste manzoniana all'HIV, cosa è cambiato? Come siamo cambiati noi? Sono aumentate le paure? Hanno preso nuove forme, nuove vesti? In linea con noi abbiamo il professor Tiziano Bonini, sociologo dei media allo IULM. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. Allora, abbiamo più paura oggi o ieri? Abbiamo più paura oggi o ieri? Beh, sicuramente nell'aver più paura oggi c'è un grande ruolo, che è quello giocato dai media nel dare forma alla nostra paura. Io direi che abbiamo più paura oggi anche perché sono aumentati chiaramente i rischi, anche se aumentano contemporaneamente gli antidoti, no? Però sicuramente io pensavo ad esempio lei ha citato l'HIV, chiaramente è stata il grande incubo degli anni 80, e così come negli anni 90 poi invece sono nati nuovi incubi, quindi la professoressa prima citava l'ebola, i virus, le malattie virali, il terrore dei virus batterici. È stata una grande paura degli anni 90, ma una grande paura invece degli anni 2000 sono quei virus che impalpabili, come ad esempio i virus informatici, che hanno lo stesso rischio, lo stesso potenziale, non di infettare gli organismi, ma in realtà di infettare degli organismi elettronici che fanno ormai parte della nostra vita. Sono protesi dei nostri corpi. Io volevo chiedere, dallo spunto del professor Bonini, professoressa Gismondo, adesso noi, grazie anche ai media, sappiamo di più. Infatti. Ecco, il sapere di più ci rende più tranquilli o accende nuove paure? Giusto, ad esempio, che i giornalisti scientifici dicano tutto esattamente, o devono essere in qualche modo aiutati, mediati dagli addetti ai lavori? Ma io innanzitutto mi permetto di dire, dal punto di vista squisitamente infettivologico, che i rischi sono inferiori e soprattutto siamo dotati di armi di difesa. Parliamo degli antivirali e degli antibiotici che prima non avevamo. La storia ci ricorda che ogni 20 anni circa c'erano delle epidemie con centinaia se non migliaia di morti. Adesso, grazie al cielo, no, sono circa 150 anni che non abbiamo di queste epidemie. Poi la paura, secondo me, aumenta perché aumenta l'informazione e sono direttamente proporzionali. Il mio parere, assolutamente personale e forse anche criticabile, sono assolutamente per un ruolo diverso dei media nell'ambito della scienza. Molte volte alcune informazioni, proprio perché ci vuole una preparazione squisitamente tecnica, finiscono per nuocere. Io rispetto la libertà di stampa ed è assolutamente tipica di una democrazia, di un paese civile e maturo, però forse nel dare le notizie scientifiche non per niente il WHO, l'OMS ha un servizio a parte che è proprio dedicato a filtrare come poter dare notizie corrette ma nella maniera giusta per evitare poi il panico, che molte volte è ancora più deleterio e nefasto che non l'epidemia in quanto tale. Professor Bonini, vuole aggiungere qualcosa? Sì, una cosa è che sicuramente è sempre bene scegliersi le fonti giuste, no, dei media per informarsi, che era, è il caso anche di, potrebbe anche citare il caso della, dell'ultima grande influenza che di cui abbiamo avuto paura negli ultimi due anni e che dai media è stata molto amplificata, però spesso magari i media possono essere criticabili e attaccabili, però il mondo dell'arte e soprattutto delle performance media legate ai media, ad esempio, spesso riflette sul potere, criticamente sul potere dei media. Per esempio è il caso di un collettivo di artisti bolognesi, Eve Franco Martes, che nel 2001 alla Biennale di Venezia hanno scritto un codice di un virus informatico e l'hanno messo in scena, quindi facendolo diventare qualcosa di tangibile, di conoscibile, no? Come si diceva prima, che il virus fa paura anche perché non si conosce, non si tocca, non si vede, è l'altro sconosciuto. Ecco, loro volevano con questa performance, che poi è passata un po' alla storia della net art, volevano un po' riflettere sulla difficoltà, il ruolo che spesso i media hanno nell'amplificare queste paure, quanto invece poi spesso... E noi cercheremo di sondare anche le paure dei nostri ascoltatori, in qualche modo i timori. Alessandro, prima dei mercati, vedo che vuoi intervenire. Ti dimeni come un virus o come un batterio? Batterio. Un batterio. Chiamato in causa, devo dire una cosa, che il problema dei media è la semplificazione, no? Bisogna semplificare qualcosa che è veramente molto complicato. Non è un lavoro difficile, bisogna solo essere preparati. Ecco, a volte alcuni nostri colleghi che sono abituati a scrivere un po' di tutto e magari non hanno una specializzazione, da una parte sono attirati dalla cattiva notizia, che mi sembra allontani la gente in questo senso, e dall'altra alla fine tagliano delle parti che possono sembrare complesse ma invece possono essere tradotte, tu lo sai Nicoletta, e che sono importanti per capire. Poi c'è qualcosa di molto importante in queste cose, l'epidemiologia, andare a vedere quando si dice questo è un pericolo terrificante. Quanti morti ha fatto? Quante persone ha toccato? Alla fine, no? Questi Quindi, sono è matematica. Buon senso, informazione e collaborazione. Assolutamente. Collaborazione con i medici, tra giornalisti e medici, per un'informazione che sia efficace e adeguata. Professor Bonini, grazie. Grazie a voi, concordo con tutto quello che hanno detto. Chiudiamo concordando tutti nella stessa direzione. Quando si è tutti d'accordo, io sono anche sempre un po' preoccupata. Anch'io. Ma comunque... Virus e batteri. Stiamo scrivendo la sceneggiatura di un film con questi protagonisti. Ci aiuta la professoressa Maria Rita Gismondo, ci dà sicuramente una mano Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene. Professoressa Gismondo, noi siamo pronti sul Chuck si gira, ovvero parliamo di trasmissione. C'è chi teme il contagio diretto, chi quello indiretto, quindi bicchieri, telefono, tastiera del computer, maniglie. Dove state andando? Ben, porto i bambini al gabinetto. Ma allora io parlo al vento. Perché? Allora te lo ripeto per l'850esima volta. I bar e i bagni pubblici sono i distributori automatici della salmonellosi e del tifo, d'accordo? Magda, vai, vai. Non sarò certo io a trattenerti con le catene, vai. Se vuoi andare incontro alla salmonellosi la troverai là con la mano tesa. Vai, vai. Magda, almeno usa questo, scusa. Ma cosa l'è? Un copri tavoletta sterilizzato, perlomeno cerchiamo di rendere la vita difficile ai bacilli, no? Professoressa Gismondo, e c'è chi sviluppa però anche delle vere e proprie fobie con relativo evitamento. E va bene, adesso glielo chiedo. Allora, che sono queste posate di plastica da picnic? Perché non prova le nostre? Ha paura che non siano pulite? Tutto bene? Sì. Beh, ho visto il personale, prendo le mie precauzioni. Ora si conceda un po' di training. Devo provare le posate pulite degli altri come parte del piacere di andare a pranzo fuori. E per tutto questo c'è una ricetta che viene suggerita niente meno che dai sette nani. Coraggio, ora voi provate con me. Vedrete che poi difficile non è. Se mettendo un po' d'acqua sul viso insieme a me fate brrrr. Adesso il sapone, con quello si fa un bel po' di schiuma, e quando se ne ha abbastanza si spalma sul viso, poi si fa con mani bagnate e ben saponate, sfregate perché bisogno ce n'è. Avrete un po' di freddo, però non è brutto in fondo pulirsi un po'. Come difendersi da virus e batteri? Voi che fate? Lavate le mani, portate le mani davanti alla bocca. Adesso ha sternutito 3 o 4 volte Alessandro Pellizzari, professoressa Gismondo. Ma nessun problema, nessun problema. Ha messo la mano davanti alla bocca? Sì, ma mi dicono che il range di uno starnuto è qualcosa come 15 metri, una cosa. Beh, però no, però la concentrazione sì. Delle cosiddette particelle di Voegel, che sono le particelle di saliva con dentro batteri, eccetera, diminuisce allontanandosi dal soggetto. E poi, quindi stai lì, capotavola. Precauzioni lontano. Sì, ma fobia no, per cortesia. Ma poi potrebbe essere allergia che non è infettiva. Ma comunque lei dentro la bocca ha i suoi batteri. Eccola, batterone. Ecco. Allora, Mauro da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Io sono l'ascoltatore ideale perché ho un bimbo con la varicella che ha 4 anni, ho la bimba che ne ha 6 e non l'ha ancora presa. Io non mi ricordo di averla presa, l'ha presa mio fratello, io sono terrorizzato di prenderla perché poi ho paura a prendere antivirali, ho paura a prendere, che mi ha specificato anche l'omeopata, che probabilmente l'antivirale può causare nevriti o altre. Allora, sono terrorizzato. Lei è terrorizzato, professoressa Gismondo. Beh, noi abbiamo detto che la varicella ci fa fare un po' di vacanza. Però agli adulti forse no, a parte le conseguenze dell'assenza del lavoro, può essere in effetti un'infezione un po' più seria. Però bisogna capire a che punto è la varicella di sua figlia, perché in base al periodo dell'infezione c'è una pericolosità di contagio a chi gli sta vicino. Quindi se la sua bambina ha già le sue belle vescicole, potrebbe averla già contratta e comunque è già nella fase infettiva, e lo è sino a quando queste cicatrici, insomma queste vescicole, diventeranno secche e cadranno le crosticine. Le consiglio comunque di non avere contatti molto ravvicinati con la bambina, si limiti nelle affettuosità, aspetti che le passi. No, io sono proprio lontano da una settimana, cioè proprio una... Proprio ha fatto le valigie e è andato. Dai, che ha cercato di... Allora, Mauro diceva anche: ho paura degli antivirali. Ne abbiamo sentito parlare tanto di questa categoria di farmaci, professoressa Gismondo. Sono farmaci, in quanto tali bisogna prenderli solo se prescritti e solo se necessari. Ogni farmaco, ma anche l'aspirina, ci fa pagare un prezzo. Bisogna capire se il vantaggio è superiore al prezzo che ci farà pagare. Andiamo da Luigi, che ci chiama da Verona. Buongiorno Luigi. Sì, buongiorno, io sono in autostrada, ma sono di Seveso in provincia di Monza Brianza, conosciutissima per il discorso del 76 della diossina. Sì. Comunque io era un'altra cosa. Mia moglie, quando siamo 12 anni che siamo sposati, ha avuto circa 100 cistiti e una decina di candide. Sì. Tra munorille, così penso che la flora e la fauna sia andata a quel anche paese. Anche la fauna. Per dire. E un'altra cosa, i batteri in effetti sono la causa di queste cose qua per me, perché poi ho avuto anche i vernicoli che mi spiegavano un attimino che di notte viaggiano, o di notte, e sono veramente, io non so più cosa fare, perché tra il munorino, tra tutte queste cose che prende. Poi in effetti aveva ragione la dottoressa quando si starnuta, in effetti, siccome sono anche dalla Croce Rossa, vivono per mezz'ora circa, in effetti bisogna mettere la mano davanti. Vedi, come ci insegnavano. Complimenti alla trasmissione, perché veramente io la seguo quando vado per lavoro in Veneto, la seguo veramente molto, anzi io sono contento che ci sia una trasmissione così. Grazie. Dunque, Luigi, e complimenti. Grazie. Luigi ci porta ad un caso abbastanza frequente, ma dice recidivanti. Abbiamo detto che alcuni ritornano, ma certo, cestiti recidivanti, che cosa bisogna fare? Che cosa si è sbagliato, professoressa Gismondo? Diamo qualche consiglio molto sintetico al nostro amico. Innanzitutto, cistiti ricorrenti che con l'antibiotico che lei ha citato, malgrado tutto, continuino, addirittura mi parlava, sentivo centinaia di episodi, sicuramente sono degni di un'attenzione diversa. Immagino che lui, che sia andata sua moglie, ma glielo consiglio, da un urologo per indagare anche se c'è qualche situazione anatomica che favorisca queste cistiti. E poi le consiglio solamente una cosa che molte volte viene disattesa: le donne che soffrono di cistiti solitamente hanno un intestino non in ordine, e lì prendere i cosiddetti probiotici, cioè quei batteri buoni, può aiutare. Marco da Udine, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. La mia affermazione è nello stesso tempo anche una domanda. Io sono abituato, forse sicuramente sbagliando, a non lavarmi le mani prima di mangiare. Perché? Ho sentito centinaia. Perché io ho sempre. Quello che non strozza ingrassa, Marco? No, quello che. Esatto. Secondo me la cancellazione di tante malattie è dovuta alle medicine, sicuramente, a tutta la strada che ha fatto la medicina. Ma il fatto che noi si abbia una igiene forse eccessiva, magari sbaglierò, ma io la penso così, ci cancella parecchi, ci indebolisce il nostro, secondo me, il nostro sistema immunitario. Io adesso non lo so. Quindi lei prima di io non mi ammalo mai. Lei non si ammala mai, e la sua ricetta, professoressa Gismondo, è: non mi lavo le mani prima di mangiare. Il nostro ascoltatore ha detto una cosa estremamente corretta. C'è stato uno studio che ha fatto vedere che persone che vivono nell'eccessiva asetticità poi diventano poco difensivi dal punto di vista immunologico. Ma dall'altro lato, al di là della sgradevolezza di avere un commensale con le mani non lavate di fresco, è errato, perché durante il pasto si mette in bocca direttamente la mano che magari è andata su maniglie, su mezzi pubblici, e quindi diventa un veicolo di batteri, di virus. Quindi, senza esagerare, il nostro ascoltatore, ecco, ha il consiglio, almeno da parte mia, di lavare le mani prima di sedersi a tavola. Ecco, un altro fronte di questo tipo sono i bambini. Molte mamme dicono: ma il bambino sporco è un bambino che avrà un sistema immunitario più forte, avrà tutta una serie di difese. Altre mamme invece applicano la regola dell'igiene, perché è anche una regola, come dire, che uno si porta un pochino nella vita, magari. Ecco, qual è il giusto equilibrio? Secondo me, stressare il bambino in continuazione col giocattolo che porta in bocca, che poi la fase orale sappiamo essere molto importante nella crescita, è eccessivo. Io direi, mamme, state molto attenti all'igiene della vostra casa. Per esempio, non usate dentro casa le scarpe che mettete all'esterno, usate dei detersivi che sanifichino a fondo gli ambienti, e poi lasciate liberi questi bambini. In linea con noi abbiamo Fabrizio da Milano. Buongiorno Fabrizio, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io sono in pratica proprio fobico per quello che riguarda l'igiene, ma lo sono diventato perché... È sparito Fabrizio, è caduto. Professoressa Gismondo, però abbiamo colto da Fabrizio, noi l'abbiamo così raccontato con un film su Qualcosa è cambiato. Ci sono proprio persone che... Fabrizio? Sì. Eccola di nuovo, ho detto Fabrizio è sparito. Invece, quindi lei ci ha detto è fobico, ma lo è diventato? Mi spiace, Fabrizio non era destino. Allora, ci sono persone che sviluppano delle vere e proprie fobie, delle ossessioni. Ne abbiamo già parlato per quanto riguarda l'igiene. E l'eccessiva igiene non ci porta nulla di buono. Vogliamo in questa nostra chiacchierata su virus e batteri dare delle indicazioni, io dico di buon senso, nel senso che siano facilmente applicabili, ma naturalmente supportate da tutta la letteratura scientifica, e approfitto di averla qua ospite con noi per chiederlo. Guardi, assistiamo a una società molto strana. Da un lato abbiamo dei giovani che sembrano aver dimenticato la paura della trasmissione dell'HIV, e dall'altro lato fobici che si lavano le mani 25 volte al giorno. Allora, io penso che professionalmente, certo, sia doveroso innanzitutto cogliere l'occasione di questa splendida trasmissione per dire: non dimentichiamo la pericolosità del contagio attraverso rapporti sessuali non protetti, perché l'HIV non è stato sconfitto, perché non ce ne accorgiamo, perché si sopravvive molto più a lungo, ma esiste. Quindi, grazie di questa possibilità, attenzione ai rapporti sessuali, che sono veramente, se non protetti, la causa di quei virus che una volta presi non ce li dimentichiamo più. Dall'altro lato, nella nostra quotidianità, bastano le buone pratiche di igiene, quindi lavarsi i denti, fare una doccia, una pulizia, un'igiene personale assolutamente normale giornaliera, lavarsi le mani quando soprattutto si torna a casa, e aggiungerei: non usiamo le stesse scarpe che si usano fuori da casa per stare dentro casa. Fatto questo, andiamo sicuri. Noi abbiamo detto che sono talmente piccoli, ce ne stiamo occupando di questo mondo invisibile, che l'occhio umano non può vederli, ma un artista inglese, Luke Jerram, non si è dato per vinto, cara la mia professoressa Gismondo, e ha pensato di rielaborare le immagini di virus e batteri, di trasformarle in sculture di vetro e immagini fotografiche. Ne è nata una mostra molto curiosa. In linea con noi abbiamo Luke Jerram. Buongiorno e benvenuto. Grazie, è un piacere parlare con voi. Come le è venuto in mente di sviluppare un progetto artistico dedicato proprio a virus e batteri? Sembra un'idea bizzarra. La ragione per cui mi sono dedicato a questo progetto è che, osservando proprio le fotografie dei virus rappresentati in televisione o sui giornali, spesso mi sono confrontato con immagini che erano a colori particolarmente brillanti e splendenti. In realtà però non è così. Infatti, guardando l'immagine dei virus al microscopio, ci accorgiamo che sono strutture così piccole che non permettono di avere alcun genere di colore sulla loro superficie. E tutto quello che vediamo è ritoccato da Photoshop. E proprio questo è stato il motivo che mi ha spinto a lavorare a questo progetto artistico. Infatti, l'idea che mi ha guidato è stata quella di dare, attraverso una dimensione priva di colori, un'immagine reale. Grazie all'arte ho rappresentato veramente ciò che invece ci veniva dato in modo deformato dai media. Nel preparare la sua mostra, c'è un virus che l'ha stimolata più degli altri come artista, o magari uno che le ha dato più filo da torcere? What's interesting is I'm working with glassblowers. Tutto il lavoro che ho fatto è stato molto interessante, perché lavorare su strutture così piccole mi ha imposto molti limiti per la necessità di riprodurle sotto forma di sculture di vetro. Mi sono interessato ai diversi virus, tra cui quello dell'HIV, quello della SARS, ma certamente le strutture più complesse per me da realizzare sono state quelle dei batteri. I batteri, infatti, hanno una struttura più grande rispetto a quella dei virus, e quindi le dimensioni delle statue sono maggiori. Il problema è che hanno una struttura più complessa, fatta spesso di molte estroflessioni, molti tentacoli, e questo ha reso le loro superfici molto fragili. Nel momento stesso in cui le stavo realizzando, non è stato semplice ricreare tutte queste caratteristiche con il vetro. Lei crede che la visione di una mostra come quella che ha organizzato e preparato lei possa avere un impatto non solo di tipo estetico sui suoi spettatori, ma anche suscitare delle emozioni più profonde? Il senso della mia mostra è finalizzato da una parte a raccontare il senso di meraviglia e di incredibile che connota ognuna di queste piccole creature, e dall'altra intende generare nel suo pubblico una tensione verso ciò che quella struttura può realmente dare nella sua interazione con l'organismo umano. Quindi, da una parte c'è proprio il senso della bellezza che ognuno di questi microorganismi ha, senza dimenticare però che dentro quella struttura che puoi guardare con un approccio estetico si sollevano invece molte domande e osservazioni relative a che cosa quella struttura fa quando entra nel nostro corpo. Quindi potremmo dire che da una parte solleviamo il senso della bellezza, mentre dall'altra interroghiamo l'attenzione della mente di chi sta guardando la mostra. I suoi lavori sono stati esposti a Londra e sono venduti in gallerie e musei sparsi in tutto il mondo. Nuovi progetti per il futuro? Yes, I see. Over the last 15 years I've made artworks of all sorts. Negli ultimi 15 anni ho cercato di esplorare attraverso l'espressione artistica tutte le dimensioni possibili del vivere quotidiano. In qualche modo, molti dei miei progetti hanno provato a combinare fra loro arti diverse e discipline diverse. Attualmente sto lavorando con la mia compagna a un progetto dove l'arte si lega allo stimolo sensoriale sonoro della voce. E l'idea è quella di trasformare in espressione artistica il suono della voce. Bene, allora noi la salutiamo, la ringrazio per essere stato con noi e l'aspettiamo in Italia. Buona giornata. Non sono mai venuto in Italia, anche se ho realizzato mostre in 20 nazioni, ma mi piacerebbe molto venire nel vostro paese e realizzare una mostra in Italia. Grazie, è stato bello parlare con voi. Thank you very much. It's been good speaking with you. Professoressa Gismondo, lo invitiamo all'università da lei. Sarebbe assolutamente perfetto. E intanto voglio darvi il sito www.lukegeram.com. Andate a vederle, molto interessante. Fermo i miei ospiti, perché prima di salutarci andiamo a leggere i risultati di uno studio pubblicato su Nature, una rivista scientifica prestigiosa, dei ricercatori dell'Università del Texas, che hanno somministrato a dei topi, parlo di topi geneticamente modificati, un cocktail di farmaci che sembrerebbe poter essere in grado di distruggere i polipi intestinali, che hanno il potenziale di diventare tumori del colon. La strada è ancora lunga, perché i test di laboratorio sono stati condotti su topolini. Ma sentiamo il commento rapidissimo del dottor Stefano Fagioli, direttore di gastroenterologia agli ospedali riuniti di Bergamo. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti. Allora, intanto diciamo che è uno studio molto interessante, certamente, che parte da un principio piuttosto logico, se vogliamo anche semplice, e cioè trovare sostanze biologiche o sistemi sintetiche che possono in qualche modo sopprimere o prevenire le fasi iniziali di sviluppo del cancro, sì, da cellule che sono a rischio per svilupparlo, ed è certamente un approccio migliore che non cercare di trattare tumori che si sono già sviluppati. La difficoltà ovvia di questa cosa è che finora non c'erano sostanze che avessero un'efficacia adeguata nel fare questo, e quelle poche che ce l'avevano non avevano un'importante tossicità. Mm. Questo approccio è un po' nuovo, nel senso che va a sfruttare dei meccanismi che sono normalmente potenzialmente presenti nelle cellule. Ogni cellula del nostro corpo ha una specie di orologio biologico che stabilisce quando la cellula deve andare in quella che si chiama apoptosi, in un termine molto brutto, ma che sostanzialmente vuol dire suicidio programmato. Sì. Questi autori hanno evidenziato che le cellule che presentano la potenzialità di diventare tumori dell'intestino, quindi che sono già dei piccoli polipi, hanno di fatto una carenza genetica particolare che sfrutta la capacità di mandarle in apoptosi, quindi farle suicidare. E hanno utilizzato una combinazione di vitamina A modificata in laboratorio, sì, un'altra molecola che ha un nome complicatissimo, un strano e complicato, che sembra abbiano la capacità, almeno in questo modello animale, di mandare in apoptosi specificamente queste cellule precancerose e non le altre. E non dare degli effetti sulle cellule normali. Ovviamente questo necessita di una serie di passaggi, cioè confermare l'efficacia, confermare la non tossicità, il tutto sull'animale, e poi passare a delle prove di sicurezza prima e di efficacia poi a livello umano. Quindi i tempi sono lunghi ancora. Sono lunghi, ecco. Diciamo che è una notizia interessante, perché è un approccio molto bello e molto elegante. Non aspettiamoci di poter avere qualcosa del genere nell'arco dei prossimi anni a disposizione. Questo sicuramente è il messaggio più importante. La ringrazio per essere state con noi. Buona giornata. Salve. Professoressa Gismondo, grazie a lei, spero di vederla qui presto e magari con la mostra. Ma perché no? Però mi raccomando, amateli questi batteri. Sì, coccoliamoli un po'. Certo, io già li sto coccolando. Vedi? Allora grazie, vi saluto, vi ringrazio per essere state in nostra compagnia e appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11:00.